Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. Su quattro ruote, dalla carrozza a vapore alla rivoluzione che verrà. 2300 anni fa il problema era come dare fuoco alle navi nemiche prima che sbarcassero le truppe. Oggi la sfida è produrre energia elettrica in modo pulito ed economicamente sostenibile, ma la soluzione non è poi molto diversa. Si tratta in fondo di concentrare la luce del sole grazie a grandi specchi curvi. Ecco perché il più innovativo progetto italiano per la produzione di energia elettrica da rinnovabili si chiama Archimede, esattamente come l'inventore degli specchi ustori con i quali nuvole permettendo i siracusani respingevano le flotte nemiche. Ed ecco perché Archimede ci è sembrato un buon nome per una trasmissione che a partire da oggi fino a settembre, nei fine settimana, vi accompagnerà in un viaggio tra passato e futuro dell'energia per scoprire da dove vengono e dove vanno alcune delle tecnologie più importanti del nostro tempo, ma soprattutto per scoprire che spesso questi luoghi, passato e futuro, in qualche modo coincidono, che cioè, insomma, le idee ciclicamente, che cioè, insomma, molte idee ciclicamente ritornano. E come vedremo, ciò vale anche per il tema di oggi, che è fonte di gioie e di dolori un po' per tutti noi. Parliamo dell'automobile. Siamo negli anni 70, quando la casa automobilistica di Torino sente il bisogno di produrre un cartone animato, si chiama Cartoons, sul fondo sentite la sigla, e tenta di fare un'operazione culturale sugli italiani ormai diventati un popolo di automobilisti con tutti i pregi e soprattutto con tutti i difetti. Ma da dove viene e soprattutto dove va l'automobile? Questa è la domanda di oggi a cui cercheremo di rispondere insieme a Rodolfo Gaffino. Buongiorno Gaffino. Buongiorno a tutti. Direttore del Museo dell'Automobile di Torino, che oggi veste i panni del passatologo, passatemi il termine appunto, di Archimede. Il futurologo invece è Pietro Menga, presidente del CIVES, la Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali. Buongiorno Menga. Buongiorno a voi. Allora Gaffino, cominciamo da lei, facciamo un po' di storia. A quando risalgono i primi tentativi di fare l'automobile e di che cosa si trattava? Ah, io parto dal carro di Cugnot, che è un veicolo a vapore fatto nel 1769 con un motore due cilindri verticali, una cilindrata di 50.000 centimetri cubici, andava alla velocità di 4 km e pesava 4 tonnellate. Insomma, un carro armato. Era una pentola a pressione, direi. Ecco, e poi cosa succede? E poi diciamo c'è tutta una grossa evoluzione dove si vengono applicati sia il vapore, per esempio con il Pecori nel 1891, che è un triciclo, poi iniziamo con la Benz, che fa la prima vettura a motore posteriore a un cilindro con 5 cavalli di potenza, poi nasce la prima Bernardi, sempre triciclo, con il motore termico. Ecco, senta, ma diciamo tra la carrozza a vapore e il motore termico mi pare che ci sia di mezzo anche un esperimento elettrico. Sì, diciamo siamo nel 1907, diciamo nasce una fabbrica a Torino che fa i primi prototipi elettrici e quindi anche in America siamo nel 1909, la STAE, è una vettura che ha un'autonomia di 80-90 km a 30 km all'ora, ha una potenza di 10 cavalli con un motore elettrico centrale. Quindi un'automobile elettrica in fondo non molto dissimile da quella attuale. Su questo tema poi ci torniamo. Le chiedo un'altra cosa invece. Quando appare, diciamo, la prima automobile di concezione moderna, cioè quella che potremmo considerare come l'antenato delle automobili, esatto, che girano per le strade? Vado decisamente sulla Lancia, il modello Lambda del 1924, perché nasce la scocca autoportante, come fosse praticamente il fasciame di una barca, perché è stato concepito proprio in un viaggio che aveva fatto Vincenzo Lancia andando negli Stati Uniti, che ci impiegava 2 mesi a viaggiare sulla nave, osservando il fasciame della nave, vedendo la sala motori, viene l'idea di fare la vettura con queste centinature. Ha telefonato immediatamente al suo ingegnere dicendogli: provo a impostarmi una vettura così. Allora, sentiamo un contributo da materiale d'archivio del Museo Fiat. Quasi tutti i contributi che sentiremo vengono da lì. Siamo nel 1932, uno spot di 5 minuti, una roba impensabile oggi, per pubblicizzare la nuova fiammante Balilla. Il titolo dello spot è "Non è più un sogno", insomma l'auto per tutti. Inizia con un signore che non riesce a prendere il tram, che gli passa davanti regolarmente pieno zeppo, finché non si risolve a comprarsi l'automobile. Ascoltiamo per qualche secondo. No, non c'è più posto, caro. Aspetto un'altra corsa. €10.800 la versione berlina 4 posti, 9.000 e rotti per la versione Spider, pensate un po'. Nel video si vede il protagonista che passa davanti a dei macchinoni enormi, molto più grandi della Balilla, i cui conducenti si svenano per fare il pieno. Insomma, sembra che una certa sensibilità per questi aspetti ci fosse già. Allora, Gaffino, le chiedo: quanto pesavano e quanto consumavano le primissime automobili a motore a combustione interna? Pesavano sui 1200 kg, andavano a 95 km all'ora, consumavano 5 litri al chilometro. 5 litri di benzina al chilometro? Un litro 5 chilometri. Ah, un litro 5 chilometri, vabbè, va un po' meglio così. Ma d'altra parte, solo i nobili all'epoca dei primi tentativi potevano permettersi un'automobile. Non a caso le industrie automobilistiche sono nate proprio a partire dalle botteghe degli artigiani che costruivano carrozze che sorgevano tutte in prossimità delle corti. Archimede, tra passato e futuro. Figliolo, ricorda, niente automobile, cuore più nobile, perché l'automobile degrada a livello di bestia pilotante. Insensibilmente la creatura diabolica ti seduce. Lei è l'innuda, illibata, invitante. Tu cedi alla tentazione, fai tua, la comperi, ma e cadi in peccato mortale. Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono, mentre all'altro capo della linea telefonica ci sono Rodolfo Gaffino e Pietro Menga. Questo che avete appena sentito invece era un altro stralcio di cartoons, siamo nel 77 e da sogno per tutti l'automobile rischia di trasformarsi in un incubo, il traffico, l'inquinamento, a cui di recente si è aggiunto anche quel problemino non da poco che è il cambiamento climatico. Cosa è cambiato invece nel frattempo nella tecnologia dell'automobile? Beh, verrebbe da rispondere tutto e niente. Pietro Menga credo che sarà d'accordo con me se partiamo da un dato per poi ragionare sulle prossime evoluzioni dell'auto. Secondo Emory Lovins, che è considerato uno dei pensatori più influenti del nostro tempo, solo il 15-20% dell'energia che sprigiona la benzina nel motore raggiunge le ruote. E di questo 15-20% un terzo viene consumato per accelerare il veicolo, un terzo per vincere la resistenza dell'aria e l'ultimo terzo va invece a scaldare pneumatici e asfalto. Il risultato è che meno dell'1% del combustibile che finisce nel serbatoio di un'auto serve a portare a destinazione il guidatore, il che dopo un secolo, diciamo, di sforzi ingegneristici non è molto gratificante. Menga, lei cosa ne dice? Purtroppo è assolutamente così. I trucchetti evidentemente possono essere due: ridurre il peso del veicolo o aumentare l'efficienza e il rendimento del veicolo, consumare meno energia. E allora per questa strada qua tutta l'industria automobilistica ha scoperto che la soluzione più efficiente energeticamente è il motore elettrico, quindi aggiungere un complemento di motorizzazione elettrica dentro l'automobile. Questo è stato un po' accettato. Per passi successivi, il primo passo evidentemente è sommare al motore termico il motore elettrico, quindi le auto ibride che sono già sul mercato di questi giorni qua. E che danno un 20% diciamo di efficienza in più. Un buon 20% di miglioramento energetico e di abbattimento anche delle emissioni. Il passo ancora più avanzato evidentemente è quello di pensare soltanto all'auto con la pura motorizzazione elettrica, che però è penalizzata dal fatto che se questa motorizzazione viene alimentata da batteria di accumulatori, l'autonomia è bassa. Ecco, allora sentiamo una testimonianza, alcune righe prese dai miei 40 anni di progettazione alla Fiat di Dante Giacosa, che è uno dei progettisti storici della casa automobilistica di Torino. Siamo nel 43, l'Italia vive sotto le bombe degli alleati, la benzina è introvabile. Le notizie erano contraddittorie e allarmanti. La sconfitta in Africa, la disfatta dei tedeschi a Stalingrado, la caduta di Mussolini, la resa di Badoglio. Tuttavia, la vita aveva i suoi lati interessanti e talvolta divertenti. Nella scuola era anche l'ingegnere Mario Marchisio, direttore dei servizi tecnici per il progetto e la fabbricazione degli apparecchi elettrici. Di me molto più anziano, ma pieno di energia. Gli proposi di trasformare a trazione elettrica uno scooter costruito dall'ingegner Belmondo. Lo usai spesso per fare il percorso fra il Lingotto e casa mia. Ma quando il mio appartamento di via Cristoforo Colombo fu semidistrutto dalle bombe, dovetti rinunciare. In seguito suggerì a Marchisio di ricorrere a una Topolino. Fatti rapidamente il progetto e i disegni per adattare una grossa cassa contenente 420 kg di accumulatori e un motore elettrico in sostituzione di quello a benzina, la vettura fu allestita nel laboratorio sotterraneo del Lingotto. Marchisio fece sistemare un'apparecchiatura per la ricarica degli accumulatori nel cortile della scuola e un'altra nel giardino delle Ville Roddolo. Così potevamo ogni giorno fare la spola fra Torino e Moncalieri, rifornendoci di energia elettrica durante la notte a Moncalieri e durante il giorno alla scuola Duca degli Abruzzi. La vettura aveva la velocità massima di 45 km orari e superava agevolmente a passo d'uomo le più ripide strade mulattiere della collina di Moncalieri. Dopo la 500 costruimmo anche una 1500 elettrica per il senatore Agnelli. Menga, abbiamo sentito 420 kg di batterie, una notte per ricaricare, pochi chilometri di autonomia. Mi pare che i problemi siano rimasti esattamente gli stessi. Abbiamo 45 km all'ora, ma va anche detto che a inizio secolo il primato di velocità era elettrico, con 105 km all'ora o giù di lì. Un'auto a forma di siluro fatta da un barone belga si era aggiudicato per parecchi anni consecutivi questo primato qua, la chiamavano la Jamais Contant perché era invincibile. Quindi. Ah, ho capito. Ecco, senta, a proposito di automobili a forma di siluro, parliamo di una competizione come la Eco Marathon, una competizione organizzata dalla Shell in cui diversi team universitari si affrontano in una gara a chi fa più chilometri. Il record è, tenetevi forti, 5.300 km con un litro di benzina. Sono appunto automobili a forma di siluro, sono improponibili, dentro fa un caldo bestiale, il motore non è separato dal guidatore, non ci sono ammortizzatori, si guida da sdraiati, insomma sono delle vere schifezze come automobili. Però insomma, tra i 20 km con un litro e i 5.300, forse una via di mezzo è raggiungibile. A questo punto la domanda è, non è che bisogna proprio ribaltare completamente l'architettura del veicolo? Non è venuto il momento dopo 100 anni? Beh, sicuramente anche attraverso questa strada dei progressi si possono fare. Certo, ribaltare è un passo, come dire, culturale molto importante. Una via di mezzo è intanto migliorare le prestazioni dei componenti che sono il limite dell'auto elettrica a emissioni zero, che è la batteria. Le batterie di oggi non hanno più bisogno di pesare 400 kg. Oggi sono sui 150 kg, in un orizzonte diciamo di 10 anni si può pensare a 100 kg. 100 kg di batterie per un'autonomia di 200-250 km non è un numero molto alto, tutto sommato. Un serbatoio di benzina col suo pieno di carburante pesa una settantina, un'ottantina di chili, quindi non siamo molto lontani. Certo, comunque non si potranno mai ottenere i 500 o i 1000 km del serbatoio di benzina, ecco, il limite dell'elettrica è questa. È un limite insuperabile, quindi, secondo lei? Io credo che sia insuperabile a tempi, come dire, definibili, quindi 10 anni non credo che si possa fare. Poi sai, il futuro è lontano. Certo, non lo conosce nessuno. L'altra versione di auto elettrica, del resto, è l'auto a cella combustibile. Se un domani si riuscirà davvero a produrre delle celle a combustibile a costo molto basso, ecco, e soprattutto un combustibile, l'idrogeno, a un costo energetico molto basso, ecco che di fatto si supererà il problema dell'autonomia, sempre utilizzando però certo, una elettrica. Certo, senta, ma proprio a livello di architettura della macchina, non deve cambiare qualcosa? Sì, ci sono delle componenti molto importanti. Il peso. Il peso si può ridurre, ad esempio, ed è un contributo molto importante, facendo in modo che l'alloggiamento della batteria, che oggi sulla gran parte delle auto realizzate è un carico addizionale, un peso morto sul veicolo, facendo in modo che l'alloggiamento contribuisca fortemente alla resistenza strutturale del veicolo e si abbatte considerevolmente il peso totale, come di meno. L'altra strada è quella di migliorare ulteriormente il peso e l'efficienza complessiva togliendo componenti, quindi togliamo il differenziale, togliamo il cambio meccanico, togliamo tutto e mettiamo quattro ruote motrici elettriche incorporate direttamente nelle ruote. Cioè quindi quattro motori elettrici incorporati nelle ruote. Quindi certo. Quattro piccole elettroniche di peso e di costo molto basso, quattro ruote che si muovono in modo controllato, quindi possono sterzare, l'auto potrebbe camminare anche di traverso e questo di per sé contribuirebbe ulteriormente alla riduzione dei pesi e al miglioramento dell'efficienza. E poi non ci sono tante parti che girano, che si usurano, ma che poi per girare insomma hanno la loro inerzia, quindi consumano energia. Ecco, cosa ne pensa di progetti come per esempio l'Hypercar di Emory Lovins, sempre, che è una specie di SUV in fibra di carbonio, sicuro, ma molto più leggero, che farebbe a quanto pare dai 40 agli 80 km con un litro? Beh, questo è sicuramente molto, molto interessante perché è chiaro che uno dei passaggi forti è ridurre i pesi. Questo andrebbe bene per le auto termiche, per quelle elettriche, per tutte quante. Resta da vedere se dal punto di vista, come dire, economico la cosa funzionerebbe. D'altra parte noi siamo abituati a un mondo industriale che un po' ci chiede di cambiare l'automobile molto spesso, di non farla durare troppo, di consumare un po'. Ecco, ma infatti il dubbio è esattamente questo. Ma non è che il motivo per cui si fa così fatica a passare ad un'architettura completamente diversa è legata più alla difficoltà di convertire un'intera filiera industriale che non a dei problemi tecnologici? Io temo che ci possano essere anche delle componenti di questo tipo. C'è qualcuno cattivo che dice che tutto sommato una delle ragioni per cui ogni anno ci inventiamo un euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 è perché così insomma dobbiamo cambiare l'automobile un po' più spesso. Come con i cellulari, insomma. Sì, sì. Senta, un altro diciamo dei design che sembrano più interessanti guardando al futuro è l'idea di una specie di macchina, mi passi il termine, bicomponente, cioè con un pianale nel quale ci sono le ruote, ci sono le batterie, c'è tutta l'elettronica. E poi una carrozzeria che viene montata sopra. Adesso io non so se possa essere utilizzata, per esempio uno si fa dei begli interni in pelle, vuol cambiare la meccanica e gli cambia solo il pezzo sotto. Lei cosa ne pensa? Ma penso che questo andrebbe molto d'accordo col concetto di auto elettrico. Un motore elettrico dura 30 anni, il motore di un tram o di una locomotiva dura decine di anni, quindi tutto sommato una soluzione elettrica col vestito intercambiabile sarebbe un qualche cosa di destinato a durare davvero molto a lungo. Però ritorniamo al problema precedente, l'industria, ecco, è disposta a un cambiamento così radicale? Il nostro modello culturale, il nostro modello di comportamento è compatibile con qualcosa del genere? Un po' tutto quanto noi tendiamo a cambiarlo ogni 3-4 anni, magari soltanto per ragioni stilistiche o perché ci viene chiesto di farlo forzatamente. Quindi il problema non è tanto tecnico, credo, più culturale. È proprio un problema culturale. Ecco, mi viene una curiosità però a proposito di questo strano modello di veicolo. Gaffino, lo chiedo a lei, perché mi sembra ricordare un po' la carrozza, visto che in questa trasmissione ci esercitiamo a vedere cosa viene ripescato dal passato. Si sposa il concetto della carrozza che veniva fatta a parte proprio dagli artigiani che lavoravano col legno eccetera e poi veniva collocato su una struttura meccanica che erano delle due travi, due putrelle che sostenevano poi il motore e le quattro ruote. Il concetto di fare l'ogiva sovrapposta è una mentalità molto moderna che dovrebbe essere istituzionale, cioè uno dice invece di fare la targa personalizzata io ho il tenaio personalizzato su misura e poi posso fare il modulo a secondo le esigenze che ho dell'uso della vettura, cioè io nel garage potrei avere il modulo per il divertimento e il modulo per lavorare. È una vettura sportiva che avevamo fatto in collaborazione con il CRF e che l'avevamo presentata in parecchi saloni. Centro ricerche Fiat. Dove c'era già questo modulo, cioè un telaio molto, molto tecnologico, quindi con materiali molto innovativi, che potevano alloggiare qualsiasi tipo di soluzione, o l'ibrida o l'elettrica pura. Poi l'ogiva che veniva sovrapposta, che poteva essere un pick-up o poteva essere un coupé o una berlina. Allora, grazie Menga, grazie Gaffino, abbiamo concluso. Do solo una notizia prima di lasciarvi, perché insomma si potrebbe parlare anche di viabilità, ci sono un sacco di idee, automobili autoguidate, filoguidate. Un esperimento interessante l'hanno fatto in Germania, Bömte, cittadina tedesca appunto di 13.000 abitanti, hanno eliminato tutta la segnaletica stradale, hanno praticamente eliminato qualunque regola. C'erano 45 circa incidenti all'anno, da questa cittadina passano quasi 13.000 automezzi al giorno, ebbene dal 2007 non c'è stato più neanche un incidente. Vi lascio con questa riflessione, noi ci sentiamo settimana prossima.